Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, una zona desolata che nel resto dello stato viene definita laggiù. Inizia così A sangue freddo di Truman Capote, considerato il primo romanzo verità mai scritto nella storia della letteratura. Oggi a Destini incrociati parliamo di uno scrittore e del suo incontro con un assassino, con il quale diventò amico e grazie al quale divenne l'autore più celebrato d'America. Ma non solo. Parliamo di una storia che ha cambiato l'idea stessa alla base del romanzo. Non più racconto di fantasia, ma un documento verità che, basandosi sui fatti, riesce finalmente a riflettere in modo profondo sulla complessità della vita moderna. È la notte fra il 14 e il 15 novembre del 1959 a Holcomb, un centro rurale a pochi chilometri dalla città di Garden City, nel Kansas. È il vasto Midwest americano di cui si parla, proprio al centro geografico degli Stati Uniti. Questa notte cambierà il destino non solo di una tranquilla famiglia di agricoltori, ma quello di un'intera nazione. I Clutter, padre, madre, un figlio e una figlia, vengono massacrati da degli sconosciuti, senza un motivo apparente, a sangue freddo. Herb Clutter è un facoltoso agricoltore, uno dei cittadini più autorevoli della piccola città. Gran lavoratore e membro attivo della locale chiesa metodista, Clutter non beve, non fuma. Vive con la moglie Bonnie e i figli Nancy e Canyon, di 17 e 15 anni, nella grande fattoria di River Valley. Come ebbe a dire il detective Al Dewey, incaricato dell'indagine, di tutta la gente al mondo, i Clutter erano gli ultimi a cui sarebbe potuta accadere una cosa simile. Eppure qualcosa accade quella notte, anche se nessuno riesce a spiegarsi cosa. I quattro Clutter vengono trovati legati con il nastro adesivo sulla bocca. Sono stati tutti uccisi con un solo colpo alla testa, sparato a bruciapelo. Solo al padre viene anche tagliata la gola prima di finirlo con un colpo. Non ci sono segni di colluttazione, al contrario, al figlio è stato messo un cuscino sotto la testa. Il padre è steso su un materasso. Le due donne non hanno subito violenza e nulla risulta rubato. Solo i fili del telefono sono stati tagliati. Il giorno dopo, la notizia appare in un trafiletto sul New York Times. Uno scrittore in cerca di ispirazione per il suo prossimo romanzo, per qualche straordinaria ragione, lo nota. È l'inizio della sua fortuna. Quello scrittore è Truman Capote. Ecco cosa accadde, come racconta lui stesso in un'intervista del 66. Beh, come dicevo, stavo pensando a tre o quattro soggetti per un nuovo libro, ma certamente non avevo mai considerato il delitto. Fino a quel momento non ero mai stato particolarmente interessato al genere e non ne sapevo niente. Oggi è vero il contrario. Dubito ci sia qualcuno che ne sappia più di me, o almeno di certi aspetti. La mente criminale, il pensiero omicida. Ma un giorno stavo leggendo il New York Times e nelle pagine centrali mi imbattei in questo piccolo trafiletto: importante agricoltore assassinato, che andava avanti per due o tre paragrafi. Sul momento non ho pensato a niente di particolare, ma poco a poco si è innescata un'idea nella mia mente. Un delitto. Forse seguire un crimine dall'inizio alla fine poteva diventare la cornice adatta all'esperimento letterario che volevo fare. All'epoca del massacro, Truman Capote è già uno scrittore famoso. L'anno prima ha pubblicato Colazione da Tiffany. È la storia di Holly Golightly, uno dei personaggi più intensi e poetici della letteratura. Una cover girl alla ricerca del suo posto nel mondo. Un posto come la gioielleria Tiffany's. No, le paturnie sono orribili. È come un'improvvisa paura di non si sa che. È mai capitato a lei? Certo. Ma in questi casi mi resta solo una cosa da fare. Prendere un taxi e correre da Tiffany. È un posto che mi calma subito. Quel silenzio e quell'aria solenne. Lì non può accaderti niente di brutto. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome. C'è molto di Capote in queste parole. Anche Truman ha trascorso lunghi anni alla ricerca del suo posto nel mondo. Truman Stackhouse Parsons, questo è il vero nome dello scrittore, nasce a New Orleans il 30 settembre del 1924 da Arch Parsons, di buona famiglia ma senza arte né parte, e da Lily May, un'ambiziosa ragazza dell'Alabama così ansiosa di uscire fuori dai confini soffocanti del suo paese da scegliere di sposarsi non ancora ventenne. Con queste premesse il matrimonio non può funzionare e infatti i due divorziano quando Truman ha solo 6 anni. L'infanzia può segnare indelebilmente una vita ed è quello che succede a Truman Capote. I suoi primi 6 anni lo vedono sballottato da una cittadina all'altra, anni segnati da una triste e dolorosa insicurezza che lo porteranno ad avere la costante paura di essere abbandonato. Dopo il divorzio, Arch sparisce per farsi vivo solo molti anni dopo, quando Capote è già uno scrittore ricco e affermato. Lily May invece resta, purtroppo. Sono tante le sere in cui Truman rimane solo chiuso in una stanza d'albergo, mentre la madre esce con qualche amante occasionale. Nel film A sangue freddo Truman Capote, lo scrittore descrive così quelle notti. Io sono stato abbandonato ripetutamente da ragazzino. Mia madre mi trascinava da una città all'altra per seguire i vari uomini con cui si metteva. Ogni notte mi lasciava in una stanza d'albergo da solo. Mamma mi chiudeva a chiave e diceva a tutti di non farmi uscire per nessun motivo. E io ero terrorizzato. E gridavo come un dannato. E alla fine crollavo sul tappeto davanti alla porta e mi addormentavo. E dopo anni così mi abbandonò presso alcuni parenti in Alabama. You don't know how hot's been for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love is. Quando Lily May porta Truman a vivere presso 4 cugine zitelle a Monroeville, un piccolo paese dell'Alabama, finalmente il bambino sentirà per qualche tempo quella stabilità che aveva sempre desiderato. Fra queste donne, la figura più importante è la cugina Sook, che lo adora e che lui ricorderà in molte delle sue opere. Grazie a un'anziana zitella, Truman per la prima volta in vita sua sperimenta la tenerezza e la devozione materna. Una sensazione dolcissima. E poi a Monroeville, Truman, che non ha mai avuto un amico fino ad allora, incontra Harper, Harper Lee. Harper Lee è la figlia di uno stimato avvocato di Monroeville. Vispa e intelligente, è destinata a diventare una delle più famose scrittrici americane, grazie al capolavoro Il buio oltre la siepe, vincitore del premio Pulitzer. Il libro, che in seguito diventerà un famoso film con Gregory Peck, parla di pregiudizio, lealtà, odio e amore osservati attraverso gli occhi di una bambina. È un romanzo autobiografico? Forse. Ma è sicuramente di Truman che Harper parla quando descrive uno dei personaggi bambini, Dill Harris. Dill era di nuovo via con la mente. Cose meravigliose ronzavano nella sua testa sognante. Poteva leggere 2 libri nello stesso tempo che io mettevo a leggerne uno, ma preferiva seguire la magia della sua immaginazione. Poteva fare sottrazioni e addizioni con la velocità di un lampo, ma preferiva il suo mondo crepuscolare, un mondo dove i bambini dormono, aspettando di essere raccolti come gigli al mattino. Harper diventa la migliore amica di Truman e lo resterà per il resto della sua vita. I due trascorrono intere giornate a giocare insieme e a immaginare mondi fantastici. Per divertirci usavamo oggetti creati da noi per i nostri giochi. Non avevamo molti soldi, non avevamo giocattoli, nessuno faceva niente per noi. Così il risultato fu che vivevamo della nostra immaginazione per la maggior parte del tempo. Ci inventavamo dei marchingegni, eravamo accaniti lettori e trasferivamo quello che leggevamo dalla pagina scritta al cortile di casa. E poi creavamo degli spettacoli. Harper è l'unica a comprendere e accettare Truman per quello che è. Nonostante le sue evidenti capacità intellettuali, o forse proprio a causa di queste, a scuola il ragazzo viene lasciato in disparte, se non apertamente preso in giro per i suoi modi effeminati, la sua inusuale voce acuta e la lisca in bocca. Di certo tutti i buoni motivi per essere deriso in uno stato del sud in quegli anni. Ma tutto sta per cambiare. Il ragazzino solitario e deriso sta per diventare uno degli uomini più noti e amati del jet set, nella città più famosa d'America. Lily May decide di trasferirsi a New York e porta con sé il bambino. Truman la odia, ma qualsiasi cosa va bene pur di cambiare vita. A New York, la donna si sposa una seconda volta con un ricco cubano, Joe Capote, che in seguito adotta Truman. Con il nuovo cognome inizia anche una seconda esistenza per Truman. Il patrigno è relativamente ricco, la famiglia abita fra Park Avenue e il Connecticut e Truman inizia a lavorare come fattorino per la famosa rivista New Yorker. Per un ragazzino che scrive incessantemente da quando ha 8 anni, è una benedizione essere riuscito a entrare nel tempio della scrittura americana. Per me il più grande piacere della scrittura non è quello che racconta, ma la musica interiore che le parole creano in me. I rapporti tra Truman e la madre, però, non migliorano, tutt'altro. Lily May è ormai un'alcolizzata e frequenti sono i litigi con il figlio, che inizia a dichiarare la sua omosessualità e assumere atteggiamenti sempre più eccentrici ed esagerati. Fin da adolescente, Capote decide di non nascondersi, di mostrare a tutti chi è veramente. Un atteggiamento coraggioso, ma che non l'aiuta con chi gli sta accanto, soprattutto la madre. I due non si riconcilieranno mai più. La bella vita della famiglia Capote si conclude bruscamente quando Joe viene accusato di appropriazione indebita. Terrorizzata all'idea di tornare a una vita di stenti, Lily May si suicida, mentre Joe finisce a Sing Sing per un anno. Ma Truman ha ormai trovato la sua strada. A 23 anni pubblica il primo romanzo Altre voci, altre stanze, ed è il successo. E lo scandalo? La copertina mostra una foto dello stesso Truman steso seduttivamente su un divano. Sembra dire: questo sono io, nonostante la mia infanzia, nonostante la mancanza d'amore, io sono Truman Capote. La sua frase più famosa diventa: è il fallimento che dà sapore al successo. Wants to give my cheek a pat. If the Harris pat means a Paris hat, okay. But I'm always true to your darling in my fashion. Yes, I'm always true to your darling. My way, I'm always true to you, darling, in my old, old-fashioned way. È proprio grazie alla sua ambiguità che Capote diventa il cocco dell'alta società newyorkese. È amico del fotografo Cecil Beaton, del commediografo Noel Coward, di Marilyn Monroe e Montgomery Clift, persino di John Kennedy e sua moglie Jacqueline. Grazie ai suoi bei modi, alla cultura e al gusto di impressionare, con vestiti, gesti e storielle che lasciano la gente al tempo stesso perplessa e deliziata, si conquista un saldo posto in società confermato nel 58 dal successo straordinario che ottiene Colazione da Tiffany. Ma nonostante il riconoscimento mondano, Capote è soprattutto uno scrittore inquieto. Un anno dopo l'ultimo libro, al momento del massacro dei Clutter, Truman sta cercando un nuovo modo di esprimersi, un nuovo genere che cambi le regole del gioco. Le regole del gioco stanno cambiando anche per il paese. L'America in quegli anni si trova a un crocevia. Da una parte il paese gode ancora della tranquilla sicurezza a seguito della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e di un saldo e crescente benessere economico. Sono ancora lontani i morti in Vietnam, le contestazioni studentesche e lo scandalo del Watergate. Ma sono anche anni in cui tutto inizia a cambiare. Nel 1960 John Fitzgerald Kennedy viene eletto presidente degli Stati Uniti. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Nelle grandi città come New York, il benessere si traduce anche in un mondo allegro, anticonformista, forse cinico, ma culturalmente vivace. Al cinema escono capolavori come A qualcuno piace caldo, Intrigo internazionale di Hitchcock, Anatomia di un omicidio. Il 59 è l'anno in cui viene inaugurato il Guggenheim Museum, disegnato da Frank Lloyd Wright. Una spirale bianca che spazza via l'idea statica e cattedratica del museo esistita fino ad allora. Capote è sicuramente la manifestazione più ardita di questo cambiamento. Ne è il figlio prediletto. Ma due mondi stanno per incontrarsi. Da una parte Truman Capote da New York, scrittore eccentrico dai lunghi cappotti di cammello e i gesti atteggiati, che in una celebre fotografia di Richard Avedon, scattata quando Truman ha 31 anni, lo mostra con il torso minuto e nudo. Nella foto è occhi chiusi, sognanti, la bocca vagamente sorridente. L'altro mondo sono le lontane pianure del Midwest americano, con centinaia di paesi abitati da gente ben lontana dalla mentalità della metropoli. È un'America ancora rurale, timorata di Dio, con uno stile di vita fermo al tempo dei pionieri. È questa America che Capote vuole conoscere. Un'America tranquilla, provinciale, quasi quanto quella del Sud da cui è fuggito da piccolo. Forse è un tentativo di riconciliazione con il suo passato, o forse è il desiderio di comprendere come il mondo ordinato della famiglia Clutter si trovi improvvisamente a convergere con quello sregolato e inquietante dell'altro protagonista di Destini incrociati. Un uomo non così dissimile dal Capote più nascosto e segreto. Oh, the people would come from far away, the next whole night till the break of day, when they called her a heart, don't she know, you knew Uncle Pete was ready to go. Destini incrociati. Uno scrittore geniale, ma anche frivolo ed esibizionista, sta per fare un incontro che minerà le sue sicurezze, costringendolo ad affrontare le sue paure, le sue inquietudini e quelle di un'intera nazione. A Destini incrociati parliamo di Truman Capote e di un personaggio che, facendo la fortuna dello scrittore, ne segnerà anche la parabola discendente. Quando appena una settimana dopo l'omicidio della famiglia Clutter, Truman decide di andare a Holcomb, tutto è ancora avvolto nel mistero e ci sono ancora degli assassini da scoprire. Le indagini sono appena iniziate, la polizia brancola nel buio. Inizialmente Capote non è così interessato all'esito dell'inchiesta, non è un colpevole quello che cerca, ma un mondo diverso, lontano dal lusso, dal benessere che vive oggi. Truman cerca la contraddizione, il peccato, il fondo estremo della condizione umana. Si fa accompagnare dalla sua amica d'infanzia Harper Lee, che ha appena finito di scrivere Il buio oltre la siepe ed è in attesa di pubblicarlo. Harper fungerà da assistente alle ricerche, da raccordo fra la bizzarra personalità dello scrittore e la diffidente accoglienza della tradizionalista popolazione del Midwest. Del coinvolgimento di Harper nel progetto conosciamo un unico commento. Il delitto incuriosiva Truman e anche me. Sì, accidenti, volevo andare lì. La sentivo come una necessità profonda che mi chiamava. I due giungono in Kansas e possiamo ben immaginare la sensazione che fece Capote quando arrivò la prima volta in paese. Lui e Harper scesero in un piccolo hotel della città e questo è il ricordo che ancora conserva di lui il figlio del portiere dell'albergo. Era davvero bizzarro, forse perché arrivava in Kansas fresco fresco da New York. Mio padre lavorava alla reception dell'albergo a quei tempi e mi ricordo che raccontava che tutte le volte che Capote chiamava dalla stanza per chiedere qualcosa gli ci voleva sempre un attimo per rispondere sì signore invece di sì signora, beh, per via di quella sua vocetta così acuta. Harper Lee, ben conscia dell'aspetto e degli atteggiamenti esibizionisti di Truman, fa buon viso a cattivo gioco, trascinandosi dietro l'amico come fosse stato ancora il ragazzetto maleducato e provocatorio dei tempi di Monroeville. Quella gente non aveva mai visto, neanche lontanamente, qualcuno come Truman. Ai loro occhi sembrava uno venuto dalla luna. Gli inizi, dunque, non sono facili. Ma Capote è ben deciso a trovare a Holcomb materiale per la sua grande idea. Un libro verità con cui vuole cambiare le regole della scrittura. Sente che in mano sua la realtà può diventare un materiale dirompente. La base di un racconto in cui tutti i dettagli narrati sono realmente accaduti e al tempo stesso diventano letteratura. È per questa ragione che inizia a intervistare tutti coloro che sono entrati in contatto con i Clutter e con le indagini in corso. Gli amici, i detective, tutti gli abitanti di Holcomb saranno scandagliati in profondità da questo bizzarro ometto con gli occhiali. Tutti quanti, in attesa dell'assassino che ancora non si trova, ma che spunterà fuori un giorno. Quei primi tempi nel Kansas vengono così ricordati da Capote in un'intervista del 66. Beh, lì nessuno mi conosceva, a parte qualche insegnante del locale liceo. Nessuno aveva mai sentito parlare di me. E il detective incaricato delle indagini, il signor Dewey, che poi è diventato un mio grande amico, all'inizio non era per niente amichevole. Mi chiese anche delle credenziali e io avevo con me solo il passaporto. Non avevo neanche la carta di credito. Vivevo in questo piccolo albergo e c'erano tantissimi reporter, molti dal Midwest, da Chicago, Denver, Kansas City. All'inizio nessuno mi aveva davvero notato, ma dopo un po' i reporter andarono via e io rimasi l'unico. E quindi tutti iniziarono a chiedersi: chi è questo strano ometto? Alcune volte, quando bussavo alle porte, la gente apriva appena uno spiraglio e prima che potessi dire anche una sola parola, mi sbattevano la porta in faccia. Nel momento in cui dicevo Clutter, pensavano che forse potevo essere l'assassino in persona. Insomma, è stata abbastanza dura ed è andata avanti così per un po', fino a poco, continuando a rimanere lì, sono diventato molto amico di tutte le persone che ho descritto nel libro, di tutti i detective. Alla fine Truman riesce a conquistarsi l'interesse e spesso anche l'amicizia dell'agente di Holcomb, al punto tale che quando nel 1960 tornò a New York dal primo dei suoi cicli di ricerca nel Kansas, confessò a un amico: all'inizio è stata dura, ma adesso sono praticamente il sindaco della città. Capote ancora non sa che la sua prima visita a Holcomb sarà il preludio di un progetto letterario che durerà per 6 anni e che cambierà completamente la sua vita. Per il momento si gode ancora la tranquillità delle sue ricerche in Kansas, intervallate da ritorni a New York. Boccate di ossigeno per un uomo che ama la vita mondana quasi quanto scrive. È a New York che il grande intrattenitore Capote si gode la compagnia dei suoi amici importanti. Le feste da ballo con Marilyn, i pettegolezzi con le ricche dame di Uptown, i cocktail al ritmo di swing. Hey Bob-a-ree-bob. Hey Bob-a-ree-bob. Hey Bob-a-ree-bob. Go, go, go. I'm hip, I'm no square. I'm alert, I'm awake, I'm aware. I'm on top of every scene, digging the sounds, making the rounds. I mean, I read People magazine. I'm so... Intanto nel Kansas, dopo qualche tempo in cui le indagini non prendono nessuna direzione concreta, grazie a una soffiata, il detective Dewey e i suoi uomini si mettono finalmente sulle tracce dei possibili assassini. Catturati in Nevada per un furto di automobili, i due uomini confessano il delitto dei Clutter e vengono trasferiti in Kansas. Si chiamano Richard Dick Hickok e Perry Smith. Perry Smith. È a questo punto che i destini di Truman Capote e dei due omicidi, in particolare Perry Edward Smith, si incrociano. E sin dal primo incontro lo scrittore capisce di avere trovato in Perry Smith il protagonista della sua storia. Così come Perry è anche il secondo protagonista della nostra di storia. Finalmente ci sono dei colpevoli, dei volti da legare a questo inspiegabile massacro. Per Capote non si tratta più di parlare con agricoltori inferociti e massaie impaurite. Adesso il lavoro si fa difficile, delicato e penoso al tempo stesso. Riuscirà l'uomo che con le sue conversazioni spiritose e sarcastiche è diventato l'intrattenitore dei salotti newyorkesi a stabilire un contatto con due assassini, due uomini apparentemente violenti, forse due psicopatici? Ma torniamo al delitto. Cosa era successo quella sera di novembre? Apparentemente i due uomini erano arrivati a casa dei Clutter con l'errata convinzione che ci fosse una cassaforte con molto denaro. Dopo essere penetrati nell'abitazione e aver scoperto che non c'era neanche un dollaro, i due probabilmente perdono la testa e in un eccesso di rabbia uccidono uno a uno i membri della famiglia. Grazie alla conoscenza del luogo e delle persone, Truman Capote riesce a entrare in contatto con i due assassini e a intervistarli più volte nella prigione di Garden City. Ma come sappiamo, è solo uno dei due, Perry Edward Smith, che attira il suo interesse, come confessa nell'intervista del 66. Dick, Dick era molto aperto e veloce nel parlare, mentre invece le ci è voluto molto di più per entrare in contatto con Perry in prigione. Sì, sì, infatti. Perry era più interessante? Perry era molto più complicato, ma era una persona straordinaria. Ma andiamo a scoprire chi è Perry Smith. Perry Edward Smith nasce nel 1928, uno dei quattro figli di un irlandese e di un'indiana Cherokee che si guadagnano da vivere esibendosi nei rodeo in giro per il West. Sono gli anni della Grande Depressione. La famiglia Smith vaga da uno stato all'altro in una specie di roulotte. I bambini vivono in mezzo ai tori e ai cavalli, mangiando quello che c'è, studiando quando è possibile. Ma è una vita ancora meravigliosa rispetto a quella che dovranno sopportare tra breve. Tex Smith è un uomo violento. In più la mancanza di denaro non aiuta, così la moglie decide di lasciarlo per scappare a San Francisco con i figli. Ma la madre di Perry è una donna infelice e alcolizzata, che per un bicchiere di whisky si offre a uomini di cui non conosce neanche il nome. Una donna che certamente avrà ricordato a Truman Capote la sua mamma. Stessa fragilità, stessa ansia di vivere una vita migliore, stessa incapacità di badare a se stessa senza l'aiuto di un uomo e stessa indifferenza nei confronti dei bisogni dei figli. E come Lily May, anche la madre di Perry si suicida. Perry ha solo 13 anni quando succede. E alle spalle ha già una lunga lista di istituti dove negli anni lui e i suoi fratelli sono stati spostati da una pubblica assistenza indifferente alle loro sorti. Perry è quello che soffre di più. Nell'orfanotrofio cattolico dove viene messo, le suore lo maltrattano ripetutamente perché nelle lunghe notti che trascorre terrorizzato e disperato, bagna spesso il letto. Alla morte della madre, Perry ritrova il padre che lo porta con sé in una vita itinerante fatta di espedienti e di miseria. A 16 anni trova finalmente lavoro come marinaio sulle grandi navi mercantili. Nel 48 si arruola e partecipa alla guerra di Corea. Quando lascia l'esercito, con i soldi che riceve acquista una moto. È una notte buia, la pioggia scende incessantemente. Forse per un colpo di sonno, forse il destino, la moto di Perry sbanda paurosamente. Perry vede la morte in faccia. Si riprende, ma le gambe rimangono permanentemente danneggiate. Da allora si sente un menomato, un diverso. E poi c'è il dolore, costante, terribile. Smith soffrirà per il resto della sua vita. Non è una vita fortunata, quella di Perry Smith. Come quella di Truman Capote, gli ingredienti principali sono la solitudine, l'abbandono, i maltrattamenti. Non possono che portare all'orlo del baratro. Spesso senza un dollaro, Perry compie piccoli furti, finendo per alcuni periodi anche in prigione. È in uno di questi soggiorni che incontra l'ex meccanico Richard Dick Hickok. Insieme progettano il colpo alla fattoria dei Clutter, dopo che un compagno di cella gli parla dell'esistenza di una cassaforte. Da questa errata informazione deriverà tutta la futura tragedia. Come disse Capote, quella sera furono sparati 4 colpi che tolsero la vita a 6 persone. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang. That awful sound. Destini incrociati. A Destini incrociati, le storie dello scrittore Truman Capote e dell'assassino Perry Smith si accavallano fin quasi a confondersi. Nel corso degli incontri che Truman ha con Perry, lo scrittore si rende infatti conto sempre più delle somiglianze fra la sua vita e quella dell'assassino. Ma la storia di Perry sembra per ora destinata a un epilogo molto, molto più terribile. Ray Confessi, Perry Smith e Dick Hickok vengono processati e condannati alla pena di morte per impiccagione. E la fine? Tutto termina qui? No, è solo l'inizio. L'inizio di 5 lunghi anni. È in questo momento che Truman entra a testa bassa nel destino dei due assassini, diventandone il confidente e arrivando a procurargli un nuovo avvocato per andare in appello. Per i cittadini di Holcomb è quasi un tradimento. Truman arriva a chiamare il suo amico, il fotografo Richard Avedon, per fare dei ritratti ai due uomini. Marlon Brando, i presidenti John Fitzgerald Kennedy e Dwight Eisenhower, Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Louis Armstrong, sono solo alcuni dei grandi della Terra che Avedon aveva immortalato fino ad allora nei suoi famosi ritratti in bianco e nero. Ma a lui, come a Capote, interessa soprattutto togliere la maschera, rivelare con le sue foto gli uomini che ha di fronte. Ci riesce anche con Perry e Hickok, che insieme ai loro tatuaggi mostrati con orgoglio, rivelano spavalderia, ma anche smarrimento, estraniamento, vuoto. Un vuoto che Capote conosce bene. È come se io e Perry fossimo cresciuti nella stessa casa. E un giorno lui è uscito dalla porta sul retro e io da quella davanti. La madre alcolista e suicida, l'infanzia infelice, la personalità complessa ma anche affascinante di Perry, che ama le buone letture, che disegna splendidi ritratti e che tiene un diario, contribuiscono a creare un forte legame emotivo fra l'uomo e Capote. Anche quando Perry confessa allo scrittore cosa è accaduto esattamente quella notte di novembre. Non volevo fare del male a quell'uomo. Per tutto il tempo pensavo che fosse molto gentile, che parlasse in modo calmo e tranquillo, e lo pensavo davvero. Fino al momento in cui gli ho tagliato la gola. Intanto la stesura del romanzo, per quanto proceda lentamente, prende una strada sempre più complessa e appassionante. Capote si rende conto che quello che sta descrivendo non è solo l'assassinio di una famiglia, ma un mondo apparentemente sicuro e confortevole che mostra improvvisamente le sue crepe, fatte di luoghi desolati, di tristi bar lungo strade infinite, di sobborghi disperati e di sporchi drive-in dove si consumano vite vuote e violente. In A sangue freddo, Capote traccia il ritratto non solo di due disperati come Perry e Hickok, ma soprattutto di un'America cupa e misera, fatta di un infinito nulla. Quando penso a quanto sia bello questo libro, riesco a malapena a respirare. Unita a questa consapevolezza, c'è anche la crescente disperazione dello scrittore, che si scopre legato indissolubilmente ai due assassini, così come lo è il suo romanzo. A causa dei continui rimandi processuali e in attesa della sentenza definitiva, Capote inizia a temere che il suo libro non vedrà mai la luce, che la vicenda non avrà mai fine. Si sente vicino a un crollo nervoso. Nessuno saprà mai cosa mi ha tolto a sangue freddo. Mi ha raschiato fino al midollo. Mi ha quasi ucciso. Penso che in un certo senso mi abbia ucciso. Rinvii dopo rinvii, Truman Capote inizia a desiderare intensamente che tutto finisca, anche se questo significa la condanna a morte definitiva di Perry e di Hickok. E nel 1965 questo momento arriva. L'impiccagione viene fissata per il 14 aprile. Stanotte, poco dopo mezzanotte, due uomini prigionieri di questo istituto di pena dal 1960 verranno impiccati fino al sopraggiungere della morte. Richard Eugene Hickok e Perry Edward Smith, condannati per l'assassinio dei quattro membri della famiglia Clutter nel novembre del 1958, hanno esaurito ogni residuo mezzo legale per sfuggire alla pena. Truman decide di assistere all'esecuzione. Da questa esperienza ne uscirà devastato. Ma a esecuzione avvenuta, Truman Capote può finalmente completare il suo romanzo. E come sbloccato, la vita inizia a rifluire, la solita vita. Basta Midwest, basta prigioni, basta assassini. Ora vuole solo dimenticare, nella sua New York. Quando viene pubblicato, nel 1966, A sangue freddo suscita un'impressione e un entusiasmo assoluti, ma anche tutta una serie di polemiche. Lo scrittore viene accusato, tra l'altro, di avere manipolato in modo cinico l'amicizia con Perry Smith. Era stata vera amicizia o solo una forma di nemesi attraverso la quale Capote riesce a conciliarsi con la propria sofferta infanzia? Beh, se questo era il piano, come vedremo fra breve, non gli riuscirà. But easy come and easy go, and it's cool then. Il titolo A sangue freddo sembra non mostrare alcuna pietà verso l'uomo che ha chiamato amico per 6 lunghi anni. Anzi, sembra rafforzare la tesi del delitto efferato senza giustificazioni né perdono. Se lo scrittore sente dei rimorsi nei confronti di Smith, questi vengono accuratamente nascosti nel profondo del suo animo. Fuori, Capote si gode l'immensa notorietà e i riconoscimenti che il libro gli regala. A sangue freddo è un'opera enorme, per la quale nel corso di 6 anni Truman Capote ha compilato più di 8.000 pagine di appunti. Nulla è sfuggito al suo occhio attento, dalla descrizione delle torte di mele all'odore delle celle dei condannati, dall'accento degli agricoltori del Midwest alla parlata dolce e sussurrata di Perry Smith. Tutto il materiale di questo libro, che non è derivato dalla mia osservazione diretta, o è stato preso da registrazioni ufficiali, o è il risultato di colloqui con le persone direttamente interessate, e molto spesso di tutta una serie di colloqui che si sono protratti per un tempo considerevole. Ma Capote non si limita a descrivere. Tutto il romanzo è il risultato di lunghe e attente scelte stilistiche e di riflessioni sul senso del romanzo verità, come spiega molto bene nell'intervista del 66. Io credo che se qualcuno riuscisse a padroneggiare un soggetto in modo giornalistico, a un livello tale da potersi muovere fuori e dentro i personaggi nello stesso modo esatto in cui si procede con un romanzo, allora scrivere in modo tale significa potersi muovere sia orizzontalmente che in profondità all'interno del racconto. Ed è questo quello che succede in A sangue freddo. E c'è un'altra innovazione tecnica molto importante, e cioè che l'io narrante non appare mai. Non si sente mai la sua voce. Grazie al suo romanzo documento, Truman Capote può dimostrare a tutti che la realtà, i fatti, sono più ricchi di dramma e tensione di quello che l'immaginazione possa creare. Già, i fatti sono l'unica cosa che conta in questi casi, come dice anche il detective Dewey, chiamato anni dopo a commentare gli eventi di quegli anni. Quello che è successo. 4 brave persone sono state uccise. Uno scrittore arriva e ci scrive sopra un libro. In tutte le comunità accadono delle cose, buone e cattive. E questi sono i fatti. Con la pubblicazione del romanzo, Truman Capote guadagna più di 2 milioni di dollari. Gli editori calcolano che ogni parola valga più di 15 dollari l'una. Per festeggiare la pubblicazione dell'ultimo capitolo del romanzo, nel 1966 Truman Capote diede all'Hotel Plaza di New York una leggendaria festa in maschera, il ballo in bianco e nero, che venne definito il party del secolo. Al ballo partecipò il gotha del tempo, da Frank Sinatra con Mia Farrow a Andy Warhol, da Richard Avedon a Henry Fonda, da Marella e Gianni Agnelli a Philip Roth e Arthur Miller. 540 invitati mascherati in bianco o nero che sancirono con la loro presenza la gloria di Truman Capote. E il canto del cigno. Sebbene A sangue freddo fece di Truman Capote il più grande scrittore in America, da allora egli non riuscì più a finire un libro. È l'immagine di Perry Smith che lo insegue. È il fantasma di un'amicizia tradita. Capote inizia a bere in modo sempre più eccessivo. Si droga. Nel suo ultimo romanzo, Preghiere esaudite, rimasto incompleto, Truman espone vizi e virtù del jet set che lo ha accolto per anni. Il risultato è che questa volta è lui a essere tradito dai suoi amici di una vita, offesi dalla pubblicazione dei primi 3 capitoli. Capote rimane solo, fino a quando non muore nel 1984, 21 anni dopo l'impiccagione di Perry Smith per complicazioni dovute all'alcolismo. Come ebbe a dire: la vita è un copione moderatamente buono, con un terzo atto scritto male. Blue sky smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.